9 in punto, la versione di Oscar. Ora vi ho portato anche questa mattina, buongiorno innanzitutto dal Gattaccio Oscar Giannino, a sentire un po' più in là la canzone con cui stiamo cominciando tutte queste mattine di End of Doors, quella messa in apertura di Apocalypse Now, un meraviglioso film. Ma questa canzone vi l'ho portata a sentire fino a qua perché il prossimo verso comincia con una cosa su cui vi pregherei di riflettere, perché a un certo punto, dopo che siamo andati avanti in questa descrizione definita sulla terra disperata, il verso successivo comincia con Lost in a Roman Wilderness of Pain, e Roman è proprio romano, pensate quanto questa canzone sia adatta, perché questa era la vera ragione per cui tra le tante vi sto proponendo questa canzone, perché in questa canzone dei Doors si dice a un certo punto che la disperazione per eccellenza, questa è una canzone sulla crisi della civiltà occidentale, poi nei prossimi giorni andremo più avanti, arriva anche a dei cupissimi apici di cappottamento dei simboli della civiltà occidentale, ma a questo punto si dice esplicitamente che la disperazione in cui è perso il protagonista di questa canzone, di dolore, è una disperazione romana, e allora mi è sembrata appropriata, perché in effetti il paese, come sempre, a pochi giorni, anzi 2 giorni dalla scelta di Mario Monti, senatore a vita e non senatore a vita, come la via d'uscita per un commissariamento oramai ad horas con gli elicotteri del Fondo Monetario, quelli in Apocalypse Now sono quelli degli americani, quelli che ci aspettano se falliamo questo tentativo di governo d'emergenza sono quelli del Fondo Monetario, ma a poche ore dall'inizio di questo tentativo ecco di nuovo che riemergono tutti i dubbi, tutte le perplessità, la politica si spacca, Berlusconi aveva detto sì, ma il PDL un tumultuoso vertice di ministri e figure di primo piano dei gruppi parlamentari che dicono ma Silvio no, non ci puoi svendere i banchieri tecnocrati e comunisti a questa pallida riproposizione di chi non ha il suffragio popolare, noi lo abbiamo, conta poco che nei sondaggi siamo a picco perché il governo ha fatto rimettere la faccia all'Italia, bisogna dire no, puntare i piedi, come dice il giornale non svendiamo il PDL, assolutamente no, come dice Libero giù dai monti. Libero è stato più aperto in questi giorni, invece di fronte alla levata di capo del vertice del PDL dicono al Libero tutti si aggrappano a Super Mario convinti che faccia i miracoli, ma non è così, il suo nome spacca i partiti e alla fine rischia di essere un governicchio, allora è meglio votare subito. In altre parole, il centrodestra italiano, di fronte alla spinta di molti che credono che se Monti ce la fa a quel punto è finito il PDL, perché si spacca, perché è evidente che è già imploso, perché la parte cattolica è assolutamente contraria al voto, Formigoni, Pisano che ha detto che esce, perché il ministro degli esteri Frattini ha lasciato un'intervista al Corriere in cui ha detto non c'è alternativa, dobbiamo avere una linea di responsabilità verso il paese, ma tutti gli altri convinti che a quel punto si può andare in realtà a una modifica dell'offerta politica, e cioè che a quel punto non esiste più un PDL in quanto tale con ogni probabilità, allora dicono stiamo uniti, diciamo no, facciamo il solito appello ai cuori e diffondiamo nella nostra base elettorale i più rancidi argomenti intorno al complotto demo giuto pluto massonico, lo dico perché sono bombardato da alcune migliaia di mail anch'io intorno a questo, che naturalmente si chiedono molte persone come io faccio a non vedere che dietro al tentativo di Monti vi sia la solita setta di cospiratori ai quali obbedirebbero le banche centrali, le banche private, i flussi finanziari, tutto naturalmente volto a impedire che la sincera base elettorale del centrodestra italiana riesca a ottemperare al mandato elettorale che ha dato a Berlusconi nel 2008. Si può ragionare così? Sì, si può, non c'è niente da scandalizzarsi, c'è una parte d'Italia che è potentemente incitata da vertici di un partito che ha fallito e di un governo che ha fallito e che ci consegna nella condizione in cui l'Italia non è mai stata in tutti questi anni, mai stata cioè una fonte di contagio mondiale di queste proporzioni. E evidentemente pensano che a questo punto si tratta di evitare che un eventuale successo di questo tentativo possa poi modificare anche l'offerta politica italiana. Io credo invece che ci siano delle cose che bisogna guardare con freddo realismo. Il freddo realismo è quello che la prossima settimana, io mi auguro che le forze politiche abbiano senso di responsabilità di autorizzare quello che il governo Monti, mi auguro, vorrà proporre per rispondere alle tre domande dei mercati su meno debito pubblico subito, più incentivi per la crescita a breve e senza scassare i conti, ovvio. Anzi, terza cosa, rimettere in sicurezza i conti, visto che ieri nel downgrading delle aspettative di crescita dell'intera euroarea, l'Italia, come puntualmente abbiamo detto, è a crescita praticamente zero l'anno prossimo, ma anche la Germania se la passa mica tanto bene, perché passa dal 2,9 di quest'anno a uno modestissimo 0,8 l'anno prossimo, quindi trascina indietro tutta l'euroarea in questa sua frenata. Ecco, in questa contingenza l'Unione Europea ci dice anche che nel 2013 col cavolo riusciamo ad azzerare il deficit come avevamo proposto con la manovra estiva dello scorso agosto, e anzi saremo sotto di un altro punto abbondante ancora di deficit nel 2013. E questo perché? Perché per metà è l'effetto della minor crescita e va bene, ma però per metà è effetto del fatto che le poste ex ante che sono state avanzate dal governo, da questo meraviglioso governo che non avrebbe nessuna responsabilità, sono naturalmente vengono dall'evasione fiscale, e questo secondo le regole europee non si può fare ex ante, e non è solo secondo le regole europee, basta un po' di modesta tecnica contabile per sapere che non si fa così, perché le poste da evasione fiscale le realizzi ex post e non le puoi mettere ex ante a copertura. Quindi servono queste tre cose. Io mi auguro che queste tre cose, il governo che si formi rapidissimamente lunedì stesso, fatto da personalità non direttamente contrattate con la politica e con un programma non direttamente contrattato con la politica, di cui il primo punto, ha detto a Berlino due giorni fa Monti, sarà il taglio ai costi e ai privilegi della politica, oltre che a queste tre risposte. Ma io mi auguro che le forze della politica capiscano che non hanno alternativa, perché nel breve devono autorizzare e sostenere queste cose, e dopodiché, per quanto la mancanza di alternativa esprima non lo spodestamento della politica, ma l'inabissamento della politica di fronte alla sua incapacità e ignoranza di capire come si sta in un mondo globalizzato, resti però poi la necessaria fisiologica via d'uscita che poi i partiti possono e dovranno proporre agli elettori quando si andrà a votare, fedeli alla propria tradizione di così splendente capacità di governo che mai porta danno al portafoglio e alla vita degli italiani, potranno riarticolare le loro bellicosissime proposte di un pianeta che sta sulla Luna, che non ha i vincoli dell'euro, che non ha i vincoli dei mercati telematizzati, che non ha i vincoli della globalizzazione, ma che è convinto di vivere invece in una eterna cospirazione di poteri oscuri volti a danneggiare le così splendenti prove della politica italiana. Allora, tanto per capire, ho cominciato nel lancio di questa trasmissione dal titolo che oggi il Wall Street Journal dedica, naturalmente, appunto, tribuna di questo oscuro complotto mondiale ai danni dell'Italia. Il titolo però su una grande fotografia di Mario Monti dell'edizione europea è gli italiani provano la convalescenza intorno a Monti, che è un appunto specie di medico dei pazzi presentato così. Vi faccio riflettere che il quadro resta molto traumatico in cui agire, perché ieri è avvenuta una notizia a cui i giornali italiani non danno grande attenzione, ma che invece ha fatto di nuovo tremare l'euroarea. Questa riguarda oramai non solo l'Italia ma la Francia, perché ieri è uscito, c'è stato uno di quegli errori che testimoniano la fragilità dei mercati in cui viviamo, altro che il fatto che sia tutto preordinato, perché Standard & Poor's a un certo punto, una delle notissime patibolari, quattro agenzie di rating che sarebbero dietro il complotto ai danni degli stati sovrani e della politica spodestata, ieri ha diramato una specie di avviso dal quale tutti quanti hanno capito che sarebbe uscito di lì a pochissimo un report sul rating sovrano della Francia, e che la Francia avrebbe quindi perso la sua AAA, a cui il presidente Sarkozy tanto è attaccato, e a quel punto ci sarebbe stato sull'abbassamento del rating francese un ulteriore abbassamento di tutti in Europa. È successo un pasticcio infernale nel giro di un quarto d'ora, un nuovo record ovviamente per gli spread francesi. Sapete che la Francia è il paese attualmente più esposto in realtà col suo sistema bancario all'eccesso di eurocarta a rischio. Tandre pur immediatamente ha detto no, è stato un errore. Poi nel chiarire che è stato un errore ha detto beh sì, però è la base per quello che potremmo fare più avanti. Quindi il terrore si è ulteriormente diffuso in realtà e a questo punto è la Francia il vero primo paese che incasserebbe da un insuccesso italiano di questo governo di emergenza una botta tale che l'atmosfera che si diffonderebbe in poche ore sul sistema bancario europeo avrebbe due conseguenze. Primo, la Francia perderebbe un pochino definitivamente questa maschera indossata di essere cotitolare con la Germania dell'europotere, però la realtà è che l'intervento di emergenza con gli elicotteri famosi di cui parlo sempre del Fondo Monetario arriverebbe tanto più rapidamente in Italia, responsabile di tutto questo, e sarebbe tanto più duro il dettato ai politici che invece in televisione continuano a dire che l'Italia non deve piegarsi a questa roba dei mercati e starnazzano con libera volontà senza che i conduttori gli facciano notare che sono sciocchezze. Anzi, spesso i conduttori vedo che poi sono proclivi a dire ma è giusto, ma perché bisogna accettare queste cose? Non lo so, può essere che sia io l'unico scemo del villaggio, può essere invece che qui ci si occupi un pochino di più dei vostri portafogli e della vostra preoccupazione, stante il fatto che sappiate una cosa e ho finito. Personalmente a me, visto che molti pensano, cioè, del professor Monti, ho spesso questionato e litigato perché rispetto alla sua scuola io non sono d'accordo né su come ha concepito l'Europa né su come ha fatto l'antitrust in Europa, perché io appartengo a un'altra scuola, quella di Chicago, e non a quella europea. Quella di Chicago non è neanche ostile alle integrazioni orizzontali e verticali se producono benefici di produttività e minori prezzi ai clienti. L'antitrust in cui ha creduto e che invece lui ha fatto in Europa è tutto fatto con un altro criterio, quello delle quote di mercato, dei players di mercato, ed è quindi molto più attento alle misure ex ante ex post. Questo per dire che non siete tenuti a saperlo, ma io ho spesso polemizzato su questioni tecniche con il professor Monti. Non ho nessun ritorno né beneficio, come nessuno di noi in questa radio, dal governo Monti piuttosto che da altri. È solo per farvi capire che dovete aprire gli occhi, perché vi ammanniscono tanto di quell'LSD che al confronto quello dei tempi dei The Doors e dei The End che avete sentito all'inizio è poca roba. Allora, oggi noi vogliamo approfondire proprio come dall'est vedono questo tentativo italiano, come dall'estero tifano, non tifano, tento di spiegarlo ai loro lettori, ascoltatori, perché, ripeto, la condizione da non dimenticare è quella che siamo diventati il primo paese sospettato da questo punto di vista di far saltare per aria l'intero euro. Quindi da questo punto di vista è interessante capire qual è la piega politica in ogni paese, visto che ogni paese ha problemi di opinione pubblica, di reazioni ormai negative all'euro, per capire se in Italia considerano Monti l'espressione di un tentativo barocco e da contrapporre, come si vede in molti giornali italiani, o se invece dicono tifiamo fino alla fine. Allora, in questa prima parte abbiamo con noi David Willey, che è corrispondente a Roma della BBC, che saluto e ringrazio, buongiorno. Buongiorno. Ed Eric Joseph, lo conoscete, corrispondente in Italia di Liberation, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, cominciamo da David. Come dovessi spiegare all'ascoltatore italiano di Radio 24 qual è l'attenzione? Ce n'è tanta, ce n'è poca. E come viene presentato da una parte la fine di Berlusconi e dall'altra questo tentativo del professor Monti? Ricordo a tutti che David Cameron l'altro giorno ha detto chiaro che non fa parte dell'euro, la Gran Bretagna, ma ha detto chiaro qui c'è una possibilità concreta che salti l'euro grazie proprio al problema italiano. Che cosa diresti? Come è vista in Italia questo particolare momento del nostro malato grave italiano? Ma prima cosa direi che abbiamo alla BBC un grande interesse negli avvenimenti di questi giorni in Italia. La prova è che abbiamo dei colleghi che vengono da Bruxelles e da Londra per rinforzare il nostro piccolo ufficio qui a Roma, e facciamo molti molti servizi su radio, TV e sul web anche sulla crisi in Italia. Non è che possiamo capire meglio degli altri giornalisti. Credo che in questo momento c'è sempre qualcosa un po' fosco nella politica italiana. Ho sentito parlare dell'idea di complotti già contro signor Monti al momento dove lui tenta di fare questo nuovo governo, ma direi che in linea di massima che normalmente la politica italiana non interessa affatto i miei teleascoltatori e ascoltatori alla radio. Noi troviamo di solito la politica italiana un po' difficile a capire, anche come molti italiani, dunque preferiamo di parlare di altri aspetti della vita contemporanea italiana. Ma in questo momento credo che David Cameron la persona più importante per il momento, tutti hanno capito che è in gioco non soltanto, questo non è soltanto periodo che è importante per l'Italia ma per tutta l'Europa e anche per noi che non siamo nella zona dell'euro, seguiamo con grande attenzione i problemi dell'Italia e anche della Grecia. Credo che la nostra abbiamo una stampa che non è stata molto amichevole con signor Berlusconi. Credo che capiamo che l'era di signor Berlusconi è finita e devo fare soltanto riferimento all'ultimo Economist con titolato That's All Folks sulla copertina che è la sigla di coda dei cartoni animati della Warner Brothers. È un'altra piccola sbeffa per signor Berlusconi, che hanno descritto come l'uomo che non è idoneo a governare l'Italia. Dunque credo che molti inglesi saranno contenti di vedere un nuovo capitolo nella storia politica dell'Italia, ma lo vedono nel contesto dell'Europa intera e non nei piccoli dettagli del bizantismo della politica italiana. Ma il più degli ascoltatori che vi seguono, dei radioascoltatori, teleascoltatori, di quello che leggono, le cose che fate sul web, in realtà a oggi nell'opinione pubblica britannica l'impressione di questi due ultimi anni è stato un bene tenersi fuori dall'euro e che ci sarebbe conveniente per Londra se saltasse addirittura l'euro oppure no? No, credo che in questo momento siamo molto contenti di non far parte della zona dell'euro, perché vediamo le difficoltà e credo che le ragioni per cui abbiamo scelto di non partecipare all'euro è stato vindicato in un certo senso oggi. Ma insomma, noi benché le euro, cosiddetti euroscettici, gli uomini politici di destra in Inghilterra sono numerosi, direi che c'è stato un grande cambiamento negli ultimi anni nel mio paese verso l'Europa. Gli inglesi viaggiano in Europa, vengono a Bruxelles, vengono a Roma, vengono a Parigi in numeri sempre crescenti. Ci sono tanti inglesi adesso che hanno una seconda casa sul continente, o in Francia o qui in Italia. Credo che c'è una veduta dell'Europa molto più comprensiva che per esempio 10 o 20 anni fa, ma nonostante questo c'è questo gruppo, questa opinione che è molto diffuso in Inghilterra, che si è molto diffidente dell'Europa, non si è contento. Noi siamo grandi nazionalisti nel senso che non piace l'idea di dare la nostra sovranità a Bruxelles, e esattamente nella stessa maniera in cui gli italiani, con giusta ragione, agli italiani non piace molto in questo momento l'idea che sono Nicolas Sarkozy e Angela Merkel che danno gli ordini a Roma. È spiacevole questa idea. Spiacevole, infatti è uno dei refrain che si sentono in questi giorni per far montare l'ostilità nei confronti di questo governo, che avrebbe presentato come una specie di longa manus del fatto che i tedeschi e i francesi ci mettono le mani nelle tasche, di cui Monti sarebbe praticamente solo l'ufficiale esattore, dimenticando forse che la pressione fiscale record ci siamo arrivati grazie a questo governo, al signor Tremonti, al signor Berlusconi, che per 17 anni hanno preso i voti di coloro che come me, non perché io li abbia votati, ma di coloro che come me sostenevano davvero che ci volessero meno tasse, meno tasse. Si è visto, vero, cari ascoltatori, a 17 anni. Cosa vuol dire? Che io penso meglio degli altri? No, tant'è vero che anche i mercati hanno innalzato lo spread quando Berlusconi è caduto, ed è per questo che ci vuole un tentativo che consente ai maggiori partiti di chiarirsi le idee. Poi continueranno a raccontare, se vogliono, le proprie palle agli elettori, che spero però ci crederanno meno. È vero che anche gli altri sono lontani anni luce da quello che ci chiede l'Europa per come abbattere il debito pubblico in fretta. Vogliono una maxi patrimoniale che è recessiva, è vero che non vogliono riformare le pensioni di anzianità, è verissimo che nessuno vuole fare smobilizzi di patrimonio pubblico né immobiliare, in questo centrodestra non ha smosso un dito, tanto per essere chiari, e quindi è un po' difficile che possa accusare l'opposizione. Tutto questo è vero, ed è così che si capisce poi perché Alan Greenspan, un uomo a cui dobbiamo molto della crisi finanziaria, non della terapia ma della crisi, per le sue politiche di tasse di interesse bassissime quando stava alla Fed, ieri parlando al Council of Foreign Relations ha detto: l'Italia si salverà solo se adotta misure fiscali molto pesanti, sarà dura, ha detto Alan Greenspan. Sapete cosa fare, ma troverete i voti per farlo, ha aggiunto in maniera sprezzante. Oppure Valéry Pécresse, ministro francese del bilancio: Roma deve varare con urgenza un piano credibile da affidare al nuovo governo per ridurre il disavanzo. Tenete conto che anche la Francia ha dovuto la scorsa settimana fare la stessa cosa ed è in severa difficoltà per il suo rientro dal deficit, che avviene non prima del 2016. Parole invece di Angela Merkel: l'Italia deve fare presto chiarezza sul governo per ristabilire la sua credibilità, comunque il paese è sulla buona strada. Il commissario Olli Rehn, poi il commissario agli affari economici e monetari, ha detto: la lettera di Berlusconi a Bruxelles non è andata abbastanza lontano sulla nuova riforma delle pensioni, serve un maggiore sforzo anche su fisco e lavoro. E infine Tony Blair, che era all'Università Cattolica ieri a Milano, cosa ha detto? Per risolvere la crisi in Italia occorrono decisioni immediate, non c'è mai stato un momento più duro di questo per essere un leader. Allora io ringrazio intanto David Willi, noi andiamo in pubblicità e riprendiamo poi con Eric Joseph. Eccoci tornati qua, c'è chi quantifica in non meno di 100 i parlamentari del PDL assolutamente determinati a non dare il voto al governo Monti, un governo che dovrebbe essere snello, non più di 12 ministri con il portafoglio. Tra i motivi: non perdere il contatto con la Lega lo sapete, vuole le mani libere per ragioni interne di partito, e perché lei sì che ha sempre ripetuto argomenti polemici nei confronti, diciamo, dei tecnici e della necessità di bypassare il suffragio popolare, lo considerano un vero colpo di Stato e quindi dicono voto subito. Per il PDL ci sarebbe il problema, naturalmente un po' imbarazzante, ma del resto consueto di un leader che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Però è vero che ieri c'è stata una vera levata di scudi al vertice del partito e dei ministri, dicendo: teniamo duro, per quanto male possiamo andare alle elezioni è meglio attestarci su una linea durissima, qualunque cosa debba fare questo governo, tanto sono cose che noi non abbiamo fatto, se non l'abbiamo fatto è inutile che diamo il voto adesso, rinchiudiamoci in un fortino elettorale facendo polemica durissima, toni durissimi, e chi se ne frega, ci pensino loro. Una strategia che posso capire di fronte ai sondaggi, a una sconfitta che però si può sintetizzare in totale indifferenza verso la possibilità di tornare a governare a breve, capite? Cioè la differenza tra un tono moderato di fronte a una contingenza della gravità sottolineata da tutti gli statisti al mondo che additano l'Italia come contagio mondiale e il tono invece che secondo i resoconti dei giornali i dissidenti del PDL, ma forse addirittura la maggioranza dei parlamentari del PDL vogliono assumere, è la differenza tra una forza che si propone di superare una severa sconfitta ed inadeguatezza di governo, ma perché pensa di avere un futuro politico differente da un nome, un cognome, e chi invece propone nella fedeltà al nome e al cognome magari un culto anche quando non ci sarà più, no? Con le immaginette. Uso apposta parole sferzanti, nella speranza che, siccome non sono mai stato tra coloro che non comprendevano il genio e il carisma di Berlusconi, si capisca però che i tempi vanno avanti e soprattutto gli insuccessi storici hanno bisogno anche di giudizi all'altezza e di qualcuno in quel partito che si candidi a guidare farlo sulla base di un giudizio che tenga conto di quello che è stato fatto, perché l'Italia è in queste condizioni, non certo perché i Demopluto Giudo Massoni ci abbiano impedito a Tremonti e a Berlusconi di fare quello che si erano impegnati a fare. Allora, Eric Joseph, come si guarda, come si vede invece in Francia questa piega e a questo sviluppo italiano? E ho ricordato apposta che anche la Francia, insomma, vive momenti abbastanza delicati. C'è una campagna presidenziale, c'è Standard & Poor's che fa capire che, insomma, questa tripla A è sempre più appesa a un filo, il sistema bancario è pieno di eurocarta, quindi ci sono tante apprensioni anche nel vostro paese. Ma come si guarda da parte vostra a Monti? Sì, in effetti si guarda l'Italia come se fosse un po' il problema maggiore rispetto, appunto, alla crisi dell'euro, perché tutto sommato la vicenda greca si pensava di poter gestirla, anche se è stata gestita male e che si è trascinata per vari mesi, però tutto sommato rappresenta 2% del PIL europeo. Invece ovviamente l'Italia ha un peso molto più importante e dunque è una porta per la Francia, la Germania, per le banche francese e tedesche, e dunque per l'insieme dell'Unione Monetaria Europea e dell'Europa, anche perché come lo ricordava David Wille, il fatto che alcuni paesi non sono europei, non sono membri dell'Unione Monetaria, comunque sono coinvolti. Però in effetti dietro la vicenda italiana si percepisce anche che c'è un problema interno, e appunto come ricordavi, Oscar, adesso la Francia rischia di perdere il triple A dell'agenzia di notazione. Ha fatto il primo ministro Fillon ha annunciato un nuovo piano di austerità, aggiunto a quello del 2011-2012, dunque un nuovo piano di 7 miliardi di risparmi, e ieri il commissario europeo agli affari economici Rehn ha detto che non bastava, e dunque in realtà si ha la percezione che oggi si punta il dito sull'Italia, ma che in realtà i problemi sono simili anche in Francia, e che in realtà è proprio una crisi dell'Europa. E tra l'altro il pezzo di The Doors, This is the End, che mettevi all'introduzione, in realtà è lì il nodo, il fatto di sapere che cosa le nostre nazioni e che cosa l'Europa può trovare il suo posto nella riorganizzazione del mondo. Stiamo vivendo appunto la fine di un'epoca che ha vissuto e che ha visto l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, è proprio al centro delle affari del mondo, e che oggi stiamo in una situazione di passaggio. Allora ovviamente possiamo concentrarsi sulle vicende italiane, e le vicende italiane sono importanti. Bisognerebbe anche utilizzare questo momento, ma quasi non lo facciamo, per non elaborare il lutto di Berlusconi, ma cercare di capire che cosa è stato Berlusconi, anche perché non ha funzionato, rendersi conto che tutto sommato non era un regime, come è stato detto a lungo da tanti osservatori, però che si sapeva già da vari anni che non era così. La sua caduta è clamorosa, e l'assenza veramente di resistenza di fronte a questa pressione esterna mostra che non era un regime. La seconda cosa sarebbe anche di chiedersi per quale motivo Berlusconi è fallito, e ci darebbe anche una risposta su che cos'è il berlusconismo, che in realtà Berlusconi è stato forte, capace di creare consenso per vincere l'elezione, però che non aveva un vero progetto politico per il paese. Poi ci sarebbe anche a fare riflessione sulla sinistra, che chiedeva le dimissioni di Berlusconi, che non le ha avute, è l'esterno che ha avuto le dimissioni di Berlusconi, e la sinistra si farebbe illusione a pensare appunto che ha vinto la battaglia. Dunque questo è l'aspetto italiano, però l'importante è quello che ricordavi all'inizio, è l'aspetto più generale su che cosa oggi è l'Europa, che cosa si fa. E in effetti il governo Monti che si prospetta, un governo che fa le riforme che l'Italia avrebbe dovuto fare, ma anche sono al di là delle riforme un tentativo di armonizzare in qualche maniera le politiche europee, le politiche nazionali, e da questo punto di vista è questo un dato che dobbiamo avere presente. se guardiamo a livello mondiale, l'Italia come la Francia rappresentano meno di 1% della popolazione mondiale. Io devo dire che ti ringrazio per questo elemento che hai introdotto, perché in Italia si fa ancora zero attenzione a questo aspetto. In Europa, in questi ultimi mesi, proprio di fronte al crescere del rischio a cui si era esposti, avendo toccato con mano i limiti degli strumenti messi in campo, l'FSF messo in campo a metà dell'anno scorso quando esplose la crisi greca, e poi visibilmente inadeguato per dotazione finanziaria, per barocchismo del suo procedimento autorizzativo degli aiuti eccetera, ci si è arrivati tardi e male a capire che veramente mancano strumenti necessari perché la valuta comune abbia bisogno di un debito comune, di una politica comune, di strumenti davvero tali da far fare un passo avanti all'Unione in senso politico, in senso federale, e non solo confederazione che federa debiti che restano distinti, con una banca centrale che a quel punto non può fare il prestatore di ultima istanza, anche questo aspetto. Allora, in questi ultimi mesi proprio, a cominciare dalla Germania, da Angela Merkel, sono uscite fuori proposte che fanno capire come si vada a una, sia pur sofferta, sia pur tardiva, riflessione su quello che bisogna cambiare. Su questo avete letto che Angela Merkel ha proposto l'idea che la Banca Centrale Europea, invece che i 17 membri del Consiglio della BCE su piede parità, si voti, si modifichi lo statuto, si modifichi il trattato, perché si deve votare in proporzione al peso delle diverse economie. È evidente che in questa crisi bisognerebbe portare molto avanti il dibattito di come dare vita e strumenti nuovi all'Unione Europea, altrimenti salta l'euro. E in questo tavolo l'Italia così com'è, questa è una delle ragioni per cui ringrazio Eric Joseph, non ci può essere in queste condizioni. Quindi secondo me ha maggior ragione, tanto più velocemente facciamo il necessario per impedire che si continua a pensare che vogliamo pescare nelle tasche degli elettori tedeschi e francesi, tanto più velocemente l'Italia torna al suo posto, che il posto naturale è quello di avere il suo giusto peso, ma riconquistato con il merito, non grazie agli aiuti degli altri, per poter insieme a francesi e tedeschi e a tutti gli altri paesi in proporzione al loro peso però decidere quale nuova governance, in assenza della quale l'euro e l'Europa sono tagliati fuori, finiti, spacciati. Aveva ragione il mio maestro Milton Friedman quando ci diede l'abolimento all'inizio solo con una moneta comune senza unificare i mercati sottostanti e con corri di costo diverse, voi scoprirete la prima grande crisi che andrete in pezzi perché non potete reggere. Ecco, allora questa è la mia banale opinione, e ringrazio Ricchio Giuseppe perché è il primo che ci ha fatto pensare a questo, alla importanza di un'Italia tagliata fuori dal dibattito europeo, grazie alla sua condizione da mendico, da pitocco, e uso apposta termini così per ferirvi e farvi arrabbiare contro chi da una parte e dall'altra ci ha portato in questa condizione. Ora andiamo alle informazioni sulla circolazione stradale e poi ripartiamo da un terzo angolo visuale, quello tedesco, con Tobias Piller del Frankfurter Allgemeine. Iniziamo sentendo Laura De Lucca. Prego Laura, come la pensi? Buongiorno caro Giannino, ci vorrebbero molte persone come lei. Senta, io vorrei chiederle, ma quelli irresponsabili che vogliono andare alle urne, ci vogliono andare con il porcellum? Credo di sì, che è proprio questo uno dei punti, cara signora. Allora sì, siamo proprio degni di finire del baratro. Credo proprio che questo sia uno dei punti aggiuntivi per cui c'è chi vuole andare a votare, ripeto, da una parte e dall'altra purtroppo, però grazie anche di questa osservazione che non avevamo in questi giorni toccato. Matteo da Parma, Matteo, prego. Buongiorno, volevo solo semplicemente dire che secondo me la figura di Mario Monti non è proprio la più adatta a farci uscire dalla crisi, ovvero sia, ci farà uscire ma a costi e prezzi che nemmeno ce li sogniamo. Però questa sarà colpa di chiunque sia, professor Monti o altri, che danno la cura o di chi l'ha evitata, secondo lei? Secondo me la figura è lo smantellamento totale dello Stato italiano, iniziato nel 92 e anche prima con Prodi e con la svendita dell'IRI e tutti i gioielli di famiglia, e si arriverà alla fine con una totale privatizzazione dello Stato. Ma la totale privatizzazione dello Stato, qui c'è lo Stato che intermedia il 52% del reddito nazionale, ma quando è avvenuta stata la privatizzazione dello Stato? Mi sono perso qualche cosa, ho dormito, perché il 52% del reddito nazionale, ripeto, è intermediato dallo Stato. Allora io non riesco a capire, abbiamo 7.000 società pubbliche a livello locale in 4.800 holding, 4/5 delle quali sono in perdita, e voi dite che lo Stato è stato smantellato in Italia? media? Io non lo so, sinceramente. Ci sono state privatizzazioni all'inizio degli anni 90, da allora ci stiamo litigando su come sono state fatte, malissimo, Telecom Italia, sappiamo, eccetera, eccetera. Dopodiché i giganti energetici sono a controllo pubblico, Finmeccanica a controllo pubblico, sul listino il più che resta è quasi, è a controllo pubblico, levate le banche, e così, e lei mi parla di totale smantellamento dello Stato. Matteo, è legittimo, legittimo, per carità, evidentemente se c'è stato dormivo. Corrado da Verona. Corrado? Corrado da Verona è caduto. E allora, Tobias Piller, Frankfurt Allgemeine. In Germania, nella molteplicità dei punti di vista, diciamo così, dai giornali di sinistra a quelli invece più moderati, conservatori, a quelli più popolari come il BID, il tono generale dell'attenzione verso Monti e l'Italia qual è secondo te? In generale io penso che in Germania si vuole vedere i fatti. Così i tedeschi non sono non hanno grande talento a calarsi nelle pieghe della politica italiana, così nelle botte, in tutte queste discussioni retroscena. Esatto, e secondo te ci si aspettano dei fatti oppure wait and see, perché non possiamo sapere, forse anche Monti farà chiacchiere e non sappiamo sapere. Sono molti dubbi e il problema è che anche adesso ci sono tanti politici che dicono vogliamo prima il potere e poi vediamo, e abbiamo visto come è andato in Grecia. In Grecia c'è stato Papademos che ha detto il mio momento di potere è unico e quando devo accettare di governare allora metto le condizioni subito, e all'inizio i politici non volevano accettare le condizioni. Se Papademos comunque non avesse messo le condizioni, lui anche con grande nome sarebbe stato perso nei mani dei politici. Adesso in questo momento anche PDL mi sembra deve prima far firmare tutte le lettere di Berlusconi, di Draghi, a chi vuol partecipare al governo, e poi parlare di potere. E in Germania vogliono solo vedere quello che esce come risultato, perché l'Italia con riforme serie, si sa, può redimere tutto l'euro. L'Italia senza riforme avrà la colpa di aver buttato alle ortiche non solo l'euro ma anche l'Europa. Bisogna, secondo te, quanto ragionevolmente credere in questa piega temporale che il cancelliere tedesca, il presidente francese, innanzitutto loro e poi paesi in regola nell'euro riescano a mettere mano a significative modifiche della governance europea? Io sono molto scettico, credo che bisognerebbe farlo, ma sono molto scettico della possibilità che si possa fare adesso. Tu che pensi? Sì, ma questa uscita che bisogna contare a secondo il peso del potere, dello Stato, dell'economia, certamente è anche pensato in un modo come una questione pragmatica, dall'altro anche per gli elettori tedeschi, e quelli sono molto delusi perché si voleva fare una moneta unica con tutti dentro responsabili, e adesso i tedeschi pensano, gli italiani contrario alle loro promesse, non si sono rivelati responsabili. E poi anche il grande dubbio è che si volesse fare una moneta tipo lira anni 70 con la banca centrale che finanzia il debito dello Stato, e questo è l'ultima cosa che accetterebbero gli elettori tedeschi. In complesso, se dovessi giudicare dai sondaggi che noi non vediamo sulla stampa tedesca di queste ultime settimane, gli elettori tedeschi e i contribuenti tedeschi restano convinti, al di là di quello che pensano i media, gli intellettuali, le classi dirigenti, ma restano convinti di averci guadagnato con l'euro oppure no? Al momento restano in attesa. Al momento hanno molti dubbi, sono già molto delusi, perché le promesse del 97-98 ovviamente sono state messe in questione e messe in discussione, e dipende adesso dall'uscita dello sistema. Certamente in quel momento di crisi non se ne parla di fare solo dopo i comportamenti irresponsabili pure una messa insieme del debito italiano. Mi sembra molto dubbio questo. In quel senso ci vuole solo sostanza e non quello che i politici italiani pensano di voler fare. Perfetto, ci vuole solo sostanza e non quello che i politici italiani pensano di voler fare. Oggi è San Leone Magno, grande papa. Io mi auguro che questo invito a essere concreti non venga confuso. Un articolo di cui leggo in prima pagina il titolo: i banchieri killer non possono salvarci. Il prosieguo del pezzo nella girata è: stop all'Europa dei tecnocrati, questo governo è un golpe. Monti, il premier che vogliono i potentati economici, gli italiani non l'hanno votato. Assassinata la democrazia.